vuoi ti accudisco, perché siamo lumache e gatti selvaggi. Pensieri attutiti dai troppi rumori, questo tempo che scorre ci rende più forti. Una storia infinita di 3000 puntate, siamo gli esclusi e siamo fuori di noi. Siamo una rotta e una flotta di fiori da soli. Se rinasco ti sposo ogni volta che posso. Se mi ami davvero non amarmi sul serio. Se rinasco mi sposto ogni volta che posso. Se mi ami davvero ricomincia. La voglia che hai di far parte del mondo. A volta dai dubbi o dalla ragione, la paura pian piano diventa coraggio. Perché siano i sorrisi di un preciso momento, le mie e le tue gambe conoscono il passo. L'amore cammina e ci rende più sani. Se rinasco ti sposo ogni volta che posso. Se mi ami davvero non amarmi sul serio. Se rinasco mi sposto ogni volta che posso. Ma se mi ami davvero ricomincia. Ricomincia. No, no, no, no, no, no. E così ci somigliamo, ci osserviamo da vicino. Siamo come certi film che non abbiamo solo visto. Come il mare dentro vive fino all'ultimo respiro. Nelle notti di Capiria, nei racconti del cuscino. E così ci comprendiamo, ci osserviamo da vicino. Siamo come certe immagini che disegnano un destino. Gli amanti di domani, il posto delle fragole. E la passione, la vergogna, e la passione, la vergogna. Se rinasco.